vedere questo quadro con un col pistolino disegnato, ben incorniciato, per carità, le risate del giorno. No, io quella lì della mogliata sposata non l'ho visto, ho visto CB di Porto Torres, secondo CB di Sassa, una cosa del genere. E la volta che gli hanno fatto il gavettone a Falcone con la scuola alla barba. Lì io non c'ero, sai perché non c'ero? Perché c'avevo il braccio ingessato, però c'ero in gala a vedere la cosa. Ecco, quella era da ridere. Quella c'ha il filmino, Giampaolo De Lugo, se tu dici Giampaolo c'ha il filmino. Dopo la buonanima è Vincenzo, il fino bianco era in porta. E chi c'è? Vincenzo era un bestione allora quei tipi. La parava con la pancia e chi si avvicinava di Judia Ghisi panziati, lo sai, i fiscicchi. Che quello era un bel tempo. E a voi io anni notore dopo la conosco una vita. Lo conoscevo quando lavorava a Stintino, lo conoscevo che Maria lo chiamava, Nino, sapendo stai, te lo ricordi, la patta l'ha avuto. Sì, beh, quello è anche già dopo, io ho conosciuto Nino quando aveva il panificio toscano lì al Sassari Vecchio. Via via, non mi lamento, dietro dove abitava Tonino Cavasacchi, cos'è, via Madalenetta, quella zona lì dietro. E certo, stava un bel bene, non aveva un bel bene. E se lo va di bani furrava, e su Maria Gara. Poi c'era anche il panificio a Castelsardo. E poi dal panificio toscano, quando gliel'hanno preso, praticamente lui ha iniziato a fare il pizzaiolo. E allora lavorava a Tintino, poi aveva preso l'Oleandro in gestione, poi aveva preso quello di Via Balai, ti ricordi? Pizzeria Oleandro è proprio la di Via Antonelli, di fronte ai carabinieri, io ci ero andato anche a mangiare la pizza di un bel po'. E abbiamo fatto il pranzo, perché c'era a volte facevamo il pranzo dei CB, no? Tutti assieme. E lì è il chile che c'è, c'era una sceriffata, per carità, ma sceriffata, però di si è allucinanti. Non te lo dico qua, comunque te lo ricordo poi in altre occasioni. E da lì io non ci sono più andato, non ho più frequentato determinate persone, non ho più, diciamo, ero già a Sassari io, però sai, conoscevo vita e miracoli di tutti, perché li conoscevo tutti. E quel giorno non ho frequentato più queste grandi occasioni, queste grandi cose, perché veramente era successo un casino grande. Ci mancavano solo le pistole, guarda, sto dicendo tutto. E quindi ho detto, io vengo a mangiare, via, devi finire, ho una manica di curia che tu cazzata. E allora non ci sono più andato, perché poi sai, iniziavano capito qui o là, ce n'erano molto più prepotenti di me, molto più di quella gente che, per carità di Dio, sai, in quei tempi già ne hai conosciuto quanto ne ho conosciuto io, che dietro il microfono c'era un cane porci, e quindi ha detto basta, finito. E Nino, infatti, dal giorno non ha più, mi pare ne aveva staccato anche il baracchino dalla macchina, ce l'aveva in macchina. Nino ci aveva la modulazione come ce l'ho io adesso dalla macchina, me lo ricordo ancora. Sì, nella 125, no, nell'altra macchina, nella Peugeot. Era peggio, la palla spuri ha avuto, mi pare, no? E la palla spuri ha avuto la 307 Station Wagon, e ne ha avuto macchine. La 307 mi sembra quella granata che poi gli avevano rubato, cioè la volazione con la tua, sì. E in quella lì mi sono anche seduto io, siamo scesi a portare insieme un po' di volte. E io avuto a Nino e a Maria, che li conosco bene, a Puglia. Sembra che li abbiamo trovati anche a Città Mercato, c'era un bambino piccolino adesso. Sì, la matta nelle varie, ma con te, ella, Saghito, mio figlio, Don Ramazzo, perché la figlia, Leonora, c'ha l'età di Laria, amico. Lo so, cioè me lo ricordo. E Maria parlava con la moglie di Piero Drago la mattina, me lo ricordo bene. Lei la moglie di Piero Drago, Luna, Graziella, era una greffa, e ogni tanto c'è stato anch'io quando in figlio, cose non c'era nessuno, non più chiaro in tavoli. Parlavano di mangiare, di questo, dell'altro, di pranzo, cosa fa a pranzo oggi, sa cosa vero. E ogni tanto c'è stato a fargli compagnia, Marina sembrava un po' spigliata, la moglie di Piero, e invece poi la trovata verticale era vergognosa. La moglie di Piero era vergognosissima, l'ho conosciuta e perciò era andato con da Piero. Avevamo preso una radio, Michele aveva preso una radio. No, c'era anche la moglie di Marco, dicevo che tu non lo guarda. Mi ha detto, io va via, di due, non mi è venuta a mezz'ora il verme, vai, è grata. Con due parolacce mi diceva. Diciamo che non ho mai... Non ho mai avuto buon sangue con quella gentilità, non l'ho mai frequentata. Nel senso che Marco ogni volta che entravo rompeva, faceva, non mi sono lasciato simpatici. Oh, io ero il capobanda, io la sera ero sempre in officina con Gigi, il padre di Cosa, di come si chiama quella ragazza che entrava ogni tanto. Anche da poco, c'era due o tre anni fa, quattro anni fa, la ragazza di... mi ricordo, vabbè, con Gigi Vigile Fuoco, ce ne andavamo lì da Fosco, la alta, lì, casino, facevamo la sera, quel cazzo officina, a fine ci comprendiamo, dai, io vado fino a andare della mezza, lì vieni, la gente va là, e se ne andava a ghiera, e chi va via l'ombrico, sempre meno acqua, mettiti dei Gigi, si bruciava venendo al muro, una di voi si è caduto davanti al muro di Sebastiano Manconi. Bambolina sta dicendo. E il padre dice. Ho capito. Allora, a me già mi, cioè, mi trattava tranquillo, solo che c'era la gente che rompeva il bici, l'aveva picchiato per dire, l'aveva minacciato, si mi trovo la macchina, è lo stesso casino. Allora il bici se ne glielo prendiamo io e Antonio. Antonio Zarretto, te lo ricordi Antonio Benilli? Conosciuto è il pesce vendolo? Io l'ho conosciuto. Quello è il compare di Antonello, il mio fratello, Antonio. Con Antonio non ce n'è per nessuno. Se non glielo prendiamo, io e Antonio, un giorno a presa Agneta, gli aveva chiuso la testa nel finestrino elettrico della macchina, giù ma a foga. Attenzione, Poletto Falcone. Mi nomi, ciao Roberto. Sono i ricordi, stiamo ricordando i vecchi tempi con Gian. Oggi era il Raifu. Cos'è Robè? Di Antonio Sarretto. Vabbè, io non mi ricordavo il nome. Ogni rotta, per carità, con quel traffico, cazzo, già. Ma via un traffico, va via, un 1200 sotto l'uscerie, guarda, era una cosa allucinante, a tutti rompeva le palle. Me lo ricordo, mi ricordo tutto. Beige. Allora, che tu pesci? Più di una volta rimani a piedi, perché poi stava tutta la sera rompendo le palle con l'ignare, no? La mattina quando doveva alzarsi alle 2 di notte, alle 3 di notte per andare al posto a prendere il pesce, cazzo come partiva il furgone. E siccome io, Dino, la buonanima, chiamiamo la buonanima Celentano, di Gavino, tutti quelli, insomma, che facevamo notte fonda, eravamo in radio, cazzo a rompere le palle, oh, venite per tale segni a trainarmi, ma me ne c'era il guru. Lam International con un ZG 1200 cos'era, un 550, non mi ricordo. Cazzo, ogni sera scaricava la batteria. Grazie dei baci. Ma lo sai che non lo so, perché siccome è il compare di mio fratello e ci vediamo molto spesso, d'estate soprattutto, e una volta gli ho detto, tanto ma non me l'hai messo quelle multimode 3 che avevi? Ah, tu lo sai che non me l'ha messo, si è tutto in cantina, diventa un'incattura. Se ce l'hai in cantina me lo faccio fare, ragazzi, per pubblici a voce, sa radio. Peggio della tua, dell'MS200 tuo, quando te lo mettevi in macchina nella ragazza, roba. Se tu sali dalla frutta e verdura al mercato del pesce, è il primo sulla destra. E vedi la casa che c'ha Gianni mio? Oh yeah! Casa Reda va, Antonio. Beh, lui ha rilevato tutta la, l'attività del suocero, perché chiaramente lui e la moglie e il suocero lavoravano, lui lavorava da ragazzino, erano fidanzati con Patrizia Friuletti. Quindi quando è morto il suocero, chiaramente l'attività è toccata alla figlia e lui continua a seguire. Ma Piaggiareta aveva comprato qua in Lumesciole un attico che era una cosa favolosa, tutta in parquet, tutta, mi pare, la via Bagata, anche 250-300 mila euro. L'ha venduta sempre quella cifra e ne ha comprato una a Monte Bianchino. Ui, ui, ui, Gianni, solo la vicina rimanca. Ci credo. E adesso sono un po' così col mercato, chissà come sta andando, perché ho visto la bocca tutti i lavori, un casino. Potevano lasciarlo com'era, ristrutturarla, buonanotte, visto che era una cosa antica, si teneva com'era. Ristrutturata magari andava sempre bene. E invece adesso la rifascia di strutturata, la sono usi, anche la tiretta se la stanno a farsi fottere, perché sono tutti quanti rannicchiati in un unico posto e non è che sia bello. Già, lui non ha problemi, ma non te lo dico perché lo voglio difendere, perché è un grandissimo lavoratore. Lui ha organizzato il mercato in una maniera che lì nessuno è riuscito mai ad organizzarsi, nessuno. Tu vai la mattina, guarda, te lo dico, tu prova ad andare la mattina alle 10, 10 e mezza, sul lato destro, dopo la scalinata, dietro il frigo, lui c'ha delle ceste già pronte, ok? Ha delle ceste già pronte, dove ci sono tutti i pacchi per alberghi e ristoranti, ma non di Gattati, no, di Gamberoni Canti una mano, di Aragoste, di Fasolari, del miglior pesce che c'è in commercio, capito? Lui dà tutto agli alberghi e ai ristoranti, solo da lì lui può tranquillamente chiudere e andarsene a casa, perché a me mi ha detto personalmente, a me chiama Pasquale, mi ha detto Pasquale, se io avessi avuto solo quel lavoro mi sarei ritirato tranquillamente, perché a me solo la parte del ristorante degli alberghi mi danno circa 2000 euro al giorno. Cazzo! Sì, ma già non sono, però anch'io, basta che sono le scalinate, da dove c'era la fonte della prima, sono le scalinate lì sulla destra al primo. Lo conosco io, lo conosco molto bene Antonio, figurati, chiedilo se mi conosce a me. Molto bene, tutta la gente vecchia la conosco. No, una bravissima persona, io l'ho sempre stimato perché è un grandissimo lavoratore. Si è fatto da niente, ha fatto grandissimi sacrifici, ti immagini, anche tuo buttino va via 14 anni, quando era guruzzotaro, 15 anni, e usciva la mattina assieme al suocero a ritirare il pesce a Polottose, quando poi ha avuto 18-19 anni, furgone, suocero, vai, e io arrangiati, fatti alle gammini rubescio, e si è portato questa attività così, fino a quando è riuscito a capire veramente che l'attività poteva rendere più di quello che è stare lì dietro al banco a sticchire, a vendere due gascetti di pescio, e si è creato questo giro di lavoro, ma migliori qua, te lo giuro, i migliori ristoranti e alberghi che ci sono in provincia di Sa, anche a Olbia manda pesce, tu immagini già dire appunto è Olbia, Santiodoro, in Costa Smeralda poi non ne parliamo il lavoro che c'è in costa. Questo è un ragazzo che ci ha saputo fare veramente, c'ha questa casa, Gianni mio, una cosa allucinante. Io ci sono queste estate, facevano le macchine solo la piscina, guarda, solo la piscina, ma di tu gli si avanti. Ma grande, bella, anche che braccio inglese, un ettaro di braccio inglese è già. Bella, sì. Ma meglio per lui che si è saputo organizzare, va. Ma diciamo che quando lo sentivo io ha sempre lavorato lo stesso, sempre viaggiava, faceva, me lo ricordo bene, scendeva a Portotone a prendere il pesce a Puglia. Più di una volta l'ho accompagnato, anche di notte tardi. Un ragazzo abbastanza in gamba. Me lo ricordo, io andavo lì a prendere i bocconi, perché forse uno dei pochi che prende i bocconi, bocconi, granchi, tutta questa roba qua per andare a pescare. Canno ricchi. Infatti, la roba lì, lui si è specializzato in crostacei, capito, in questa cosa così. Io, cioè, quando tu ti organizzi a fare quelle cose, avere la ragotta fuori stagione, avere il pesce che gli alberghi vogliono, selezionato in quelle categorie, il prezzo che vogliono loro, cioè vuol dire che un ragazzo che ci sa fare, un ragazzo che è organizzato, non è così facile. Vabbè, meglio per lui. Grazie, stanno chiamando. Stavolta Renzo dice non è vero. Se vai uno con il chimico, magari il pesce è vero. Sì, andate, ce n'è. No, ma perdi, non vale. Non sai che la chiamo. Sì, sto riprendendo, vi saluto che fra 200 metri, 300 metri sono arrivati. Quindi, via. Beh, appiccia, vedi, sì. No, oggi no, oggi sono andato al cimitero, poi c'avevo cose da fare a casa, stavo pulendo il camino e un casino nero. Io sono andato 3 settimane fa di notte a Rasura. 5 mormoroni, belli grossi, il più piccolo ha pesato 600 grammi, immaginate, è un'ombrina, è un saraghetto, tutti pezzi belli. In spiaggia? No, sopra il posto, al passetto là. Vabbè, al solito posto là. Ai. Una l'ho persa, una bella mormora, perché me l'ho tirata sino arrivata al moro. Stavo prendendo, ho preso il scopo per mettere lo sotto, vado la fatta e abbiamo affittito. Non sai che questi bisogna essere in due. Chiamami però quando ci vai. Magari al volo mi mandi un messaggio, poi, vabbè, i messaggi non è che li leggo più di tanto, ma. Ma qui io li leggo, Rob. E a limite se fa bel tempo, anche sabato prossimo di notte ci andiamo. E lì è sapere proprio il punto dove c'è il canale, là. Se non conosci il canale non vedi nulla. Bisogna essere un lancio perfetto, bisogna fare, perché se tu vai appena piove ti incoceri scuri. Se invece devi lanciare devi subito recuperare un po', e quando io bucerò di coso, oramai conosco il pezzo e mi viene bene, là. E poi provo a tossirti, invece non ce n'era. Vabbè. Dimmi. Io non parlo mai per me, non mi hanno mai portato Gianni, lancia lì, e Gianni ha giocato la botta, come si chiama, la botta nara, uno che era la Trabassi. Poi ha salito l'altro, no qua, lancia qua, ho lanciato, cazzo, e liscio, cosa si è attaccato, mi aveva già cantato un cavo. Vedi qua la volta che si è riparati con Stefano, che bella che ho fatto con l'ombrina. La roba che avevo preso. Oh, sto scendendo, là. Ci sentiamo domani. Ciao. Ciao Robert, ciao, già lo so lì, un buon punto, poi già lo conosci tutto tu. Io scendendo lì già lì un casino che avevo fatto l'altra volta, ma sta lì. Poi alla fine avevo insomma capito più o meno per lanciare, ma è troppo corto. Solo a calamare lì io posso lanciare piano piano e cerco di recuperare, solo che un bel immondezza, cazzo, due duttanare giù messo in chili, poi due li avevi recuperate tutti, ricordi? Sì, ma non è immondezza, no, è rocca, per quello che c'è, rocca e sabbia, capito? Per quello che ci sono le mormore stanno nella sabbia, l'ombrina sta in tana, quindi il pesce che ho stanato io, quello lì. Lo so, perché tu lanci proprio lì in mezzo alle luci, se devo lanciare. Io non ho quelle e lì non ci vengo mai, ma le lancio, deixo la saberra e faccio il dito, perdo tutto già, anche con la toppanara lì bisogna stare attenti, perché quando raschi a sotto il fondo, mentre stai tirando piano piano, faccio una giubbesce in chili toppanari, una via recuperata Natalino, l'altra lo stesso, no, quella che va per Natalino è troppo forte, cazzo. Per la seppia che stava andando e tornando lì a Ciglio Banchina, a Natalino, e c'è la biglia, ha lanciato la dottanata, tu me ne la strada. Perché si attacca subito la seppia, si attacca. Il calamaro che si attacca a miglia, ma la seppia se non li metti il coppa sotto si fuggi. Infatti già l'avevo persa io una ne avevo bigliata e una ne avevo besciuta, ma come la faccio a me che bigliata da Natalino? Si sta. Perché c'è tentacoli corti, no? Invece il calamaro ce li allunga e si attacca. Una vetta, comunque la seppia cazzo è più bella. casa del calamaro si sente di più, però la seppia senti tac tac, le tirate strane, il calamaro invece mangia proprio. Il calamaro mangia sì, a sto magici bottanari, minchia non l'avevo mai visto io, a sto aghi sono, aghi, proprio aghi piegati sono. Quello che stavo dicendo io non ho mai pescato uno di calamaro, dico la verità. E poi quando dico me non l'avevi preso? No, no, no, non ho mai preso calamari, seppia, avuzia, ma calamari no. Non ci sono mai andato, una volta solo sono venuto, quando ce l'avete voi, però non c'era nulla. No, calamari, sì, sì, quando siamo andati io e Natalino, poi una sera siamo andati da soli lì, siamo già dei ronchi di marraggi fatti da Ceparelli. Banini la sera, manca accorti c'eravamo un fresco il giorno, manca accorti ce ne eravamo, già fatta l'una di notti. L'estate è bello lì, l'estate si pesca forte, mia radaga. Certo, io dove mi ha dato questa, cos'era, ci vuole raccura, Sant'Antonio mio, mai visto la più, questo mi ci vede. Quello lì ti attacca, se vuoi staccare lì dammo la musica, c'è denti come la murena, c'è. Anzi, più aguzzi. Questo è un po' quella grande, tira, tira, tira, è limitato già, io vedere che stiamo a guardare a Cuba, che minchia, ma grande, che. E sono pesci siluvali, se tu li vedi come si lanciano, cazzo, un siluro va. L'ho visto già l'altro giorno, te l'ho detto alla radio, l'ho visto quel programma che fanno vedere nel pomeriggio, che è un gheo. Proprio hanno fatto vedere tutta la cosa del baraccua, dove vive, cosa mangia, come attacca, come si muove, un siluro, si piega in due da questo colpo, come vede la preda, da questo colpo di pinna, un razzo. Un giorno se vieni a casa ti faccio vedere il filmato che ha fatto un amico mio che fa pescatore subacqueo con la moglie, hanno tutta la passione, non pescatore subacqueo, mi correggo, vanno a fare i filmati sott'acqua, vanno nelle Canarie, in Indonesia, nel Mar Rosso, tutti questi posti qua, e lavorano tutti all'aeroporto con una barca di soldi, ma hanno questa passione qua e quando vanno si fanno fare i filmati, cioè filmati accarezzando le tartarughe con la rete a caretta, quelle lì, in mare, si fanno accarezzare, gli danno il pesce da mangiare, tutto qua, e poi c'è un filmato dove è sopra uno squalo, praticamente lui è sopra, lo squalo è sotto di lui. A me no, non le fa niente. No, assolutamente, ha un coraggio che allucina, è bravo e morto, c'ha l'R1, cazzo, se corre in pista, fa, è bravo, è tutti di quelli spericolati, la moglie è peggio di lui, si buttano con le bambole, c'erano 300-400 metri di profondità. Ma qual è quello che mi avevi detto tu? Quello di Roma, il mio amico di Roma, lavora lì all'aeroporto di Roma, lui fa il coso check-in e la moglie invece in ufficio del direttore. Quello che mi hai detto che è spericolato il moto, che ti sei seduto tu. No, non è quello, io non mi sono mai seduto, però mi ha mandato, ha attaccato la telecamera alla moto e mi ha mandato il filmato. Praticamente parte dall'aeroporto per andare verso Ustia, lui abita Ustia. È passato a 180 davanti al posto di blocco della polizia. Ha sorpassato una macchina, quando c'era il posto di blocco c'era una specie di spazio di traffico e la macchinetta sopra lo spazio di traffico. Ha detto speriamo che non mi abbia beccato la strada. Poi ha cominciato a impennare con la moto. Sono un macco, un pazzo. La tirata sì da 280. Nessuno. Sì, vabbè, ma cioè a quei livelli è proprio da incoscienti, perché se c'è un posto di blocco ti ferma, non è che non ti fermano, mi ti fermano. corteggiare in tutto lui. E ti fermavo, ero passato in mezzo alle macchine, capito? Ne sboccato in mezzo alle macchine e poi c'era il posto di bocca, è passato dietro la macchina, magari non l'avevo manco beccato. Però ha messo la telecamera sul serbatoio e si vedeva, allora si vedeva la parte del serbatoio, il contachilometri che c'era elettronico. E poi si vedeva un pezzo di strada, là, il cupolino della moto e la strada. Potevo vedere come si vedeva la strada con la velocità, allucinante. Io non ho mai provato, nemmeno a 170 lo fa così. Addirittura. Cioè non fa proprio. Cioè non te ne accorgi neanche di quanto stai camminando. No, si restringe la strada, cioè a vista ottica. Tu hai avuto molto grosso, come se l'avevi provato, io no, non l'ho mai provato sinceramente. Però a vista ottica ti si restringe la strada, sembra che sia più stretta, capito? L'occhio non ce la fa più a vedere col grandangolo, perché l'occhio praticamente è un grandangolo, no? Come un obiettivo grandangolo che ti vede la cosa tutta intera. Non ce la faccio, la vedo ristretta, capito? È una cosa allucinante. Io a 170 sono andato, però questo non mi è successo. L'unica cosa che mi succede è che mi sento il casco come se mi stesse per uscire. Sento l'aria che mi entra dentro il casco sotto. No. No, io quei brividi non li ho mai provati, sinceramente. Ho camminato in moto, insomma, però non a quei livelli, cioè non è. Se vai a sciabilizzati, o non muovo più assoluto. Allora una volta era con la moglie, ha trovato una pigna, l'ha beccata e li ha fatti strampare tutti e due. E meno male non era molto veloce, sono stati 80-100, stavano uscendo da Ustra, me l'ha fatti strampare. Una pigna, figurati se tu la prendi ad alta velocità dove ti si fa uscire. Mi ha fatti strappare, si sono fatti male seriamente, nel senso che sono tutti graffiati, la moto si è rovinata, lui poi che la tiene immacolata, si stava soffrendo. E niente, volevano una barca di soldi per aggiustarla, si è ordinato tutti i pezzi da internet, è andato su dove vendono i pezzi delle moto, li ha ordinati che non erano originali ma che erano uguali a quelli originali, se li ha verniciati lui e ha risparmiato burina. Beh certo, è così, non è che ci vuole. Se uno poi è appassionato di queste cose, è chiaro che già riesce a farle. Ma quando uno non è appassionato, deve per forza una le attrezzature, le cose, da portarle a farle. Va bene, già, io ti saluto, perché se no domani non concludo niente, in realtà è presto. Devo fare un sacco di cose, eh? Grazie della compagnia, grazie di tutto, saluto tutti quelli che sono all'ascolto, amici, nemici, quelli che volete, un caro saluto a tutti, ci sentiamo domani già, se no tra poco capoteggio della Gardia. Ciao Claudio, buonanotte, ci sentiamo. Chi è rimasto su 10? Chi è avanti? Poi Antu, e Babbo qua. Aspetta, saluto, ciao Anto, salutami a Pierpaolo e ciao nuovamente a Gianni, dai, buonanotte a tutti, riprendi Anto, caricato l'hai portato. Ehi, allora deve essere la batteria di Roberto. Su quello di moto. La batteria di Roberto, dopo il quadrato. Ciao, riprendi già. Ah, capito. Vabbè, interessante che vada, no? Se ne affuga. Non c'è problema. Interessante che vada, se non devi fuori alimentato da tuo padre. io c'è tutta la stazione fissa, c'ho praticamente la base, la stazione base, tutto sul mobile, suo, fatto apposta, eccetera, eccetera. Ne avevo tre di stanze dove sono, l'hanno tolta, perché c'avevo il commentato era difettoso e gli ho tolto. E ci attacco direttamente. Ho lasciato due, diciamo, quelle che io ritengo le migliori. arriva non fa. Ma qua si sente proprio come l'alimentazione. Sì, sì, lo sento la registrazione, ma qui non lo fa. Sembra un leggero rumore di ventola, una cosa del genere sembra. Ecco, esatto, sai quello dovuto, che c'è la sera vicino a quella della TV. E lì fa creare questo rumore, capito? Ho detto la radiofrequenza. Non ho capito. Ho detto la radiofrequenza. Bello, e sembra il rumore dell'alternata. Se lui la sposta da lì, non lo fa più. Forse entra. Sembra puntare il tubo. Non lo so, viene male. È molto alta. Sì, alta sì. Che parata c'hai? Ah? Che parata c'hai? Vabbè, digitale terrestre, bene, non vedete per fare. A voi già, tranquillo. Comunque le sto sentendo un bel che sono effettuosi, lo sai? Parecchi. No, io ho 4 anni. Io sono andato alla mia società oggi. E mi ha detto già. C'ho questo digitale terrestre che mi lampeggia la luce da segnale. Non sarà qualcosa da ho guardato. Non sono riuscito a sintonizzarlo niente. Mi lampeggiava questa luce del segnale, poi l'ho detto a Vittorio, mi ha detto probabilmente che vuole un esattato, che vuole staccata la corrente, fatta praticamente, lasciato un po' di tempo e poi rimesse tutto in sesto. No, c'è il coso di esattazione, ce l'ha leggero. Comunque te lo dico io, se lampeggia il coso del segnale, in pratica devi controllare cosa c'ha, e lo aspettare che viene dalla parete presa. Via. Allora guarda, quelle prese a muro così hanno molto spesso il polo, i poli sono a massa. Quindi? Sì, c'era anche mia madre, così gliel'ho eliminata, in pratica gli ho fatto una specie di attacco diverso, perché infatti non prendeva segnale, allora gliel'ho tolta, perché quelle d'apparecchi hanno il segnale a massa, capito, con l'antenna analogica, normale non le fa niente, ma in digitale sì. Io non ne ho di questi problemi, ce l'ho pure io a lungo, così non mi dà nessun problema per parte. E di che anno sono però? 89. Ma dipende, capito, dipende. Molti di questi frutti, il frutto in pratica, molti di questi frutti sono a massa. E secondo lo spettrone che usi te lo dà. Non è perché sono a massa, secondo quello che usi no. Però sai cosa l'ha fatto? Che te li scintilla a voi? Scintille? Vuol dire che quello c'è delle cariche elettrostatiche. Io praticamente questa qui ce l'hanno fatta nella camera da letto, l'ha presa e non ce l'hanno fatta a cucire. Allora cosa ho fatto io? Gli ho messo una spezzone nella camera da letto, l'ho fatto un buco nel muro e l'ho fatta uscire in cucina. Va bene, in genere ci va un partitore. Cosa? Praticamente ho fatto il buco nel muro della cucina, esce in camera da letto da me, e ho fatto passare una columna che aveva sino al televisore, tranquillo, va benissimo. Non lo so io, se c'è il coso qua, se è possibile, che infatti abbiamo fatto l'altra volta ci stava facendo dei coso sulla televisione, vabbè, comunque ne parliamo un altro momento. Oh già, se in genere dico ci vuole il partitore per partire un'antenna, se lo attacchi così diretto può creare dei disturbi. Comunque sul fatto delle corde dei segnali bisogna guardare molte volte gli attacchi, perché gli attacchi sui digitali sono un po' particolari, sono c'era un disturbo, capito? Se c'era disturbo al digitale è diverso la luce. Ho detto che ci sono le antenne proprio che vanno bene per il digitale, con le schermate che vanno molto meglio per il digitale, che ti fanno vedere più canali eccetera eccetera. Noi abbiamo quella lì, abbiamo quella proprio per il digitale. E ti dico che gli funziona abbastanza bene. E che antenna ha preso? Adesso non me lo ricordo il nome, comunque per il, è proprio per il digitale terrestre. E col Taburo. No, anche lui ci avevano pensato quella, perché ti dico, nel mio palazzo si lamenta per tutti che hai visto il nuovo televisore, mi ha fatto una lettera a capo condominio, questa e quella. E io gli avevo risposto scrivendolo e dicendogli che la colpa non era la mia, che io avevo incaricato dei tecnici per controllare tutto il lavoro che avevo fatto e che avevo un foglio dove dichiaravano che la mia antenna era a posto. Fatto sta che hanno amato un tecnico loro, nominato da loro, e gli ha fatto tutto il verbale, no, della situazione. Ha scritto che l'antenna ha controllato il mio baracchino, ha controllato l'antenna, ha misurato il fatto. Poi è salito su, ha guardato l'antenna, dice, ma questa antenna è mezzo fragile, ecco perché. L'ha toccata per smontare le fara da pezzi, a fara da blu più per passetta di do per dire, proprio scesa, ha cambiato l'antenna e ci ha ordinato anche i filtri, ma non li ordino più, adesso controlliamo, ma dovrebbe essere tutto a posto. Ha guardato, non facevo più TV da nessuna parte. Delle regioni, poi quelle scatole non sono mai cambiate, quelle lì ogni tanto vengono cambiate, altrimenti la colpa non è del baracchino, ma bensì della tenda in vecchia, che è frase, del durato, quella vuole un segnale, che è andata a fare il vicino. Ma sai cosa dicevano i condomini? Che sin quando c'avevo l'antenna io, sin quando non c'era la mia antenna andava tutto bene, poi da quando ho perso l'antenna sono cominciati i problemi. I problemi iniziano perché se l'antenna non è efficiente, per forza ci sono problemi. È un primo. Magari stava che ne parava in terra, la cui non era nessuno, ti non per il tuo niente. Se il tuo allora se l'antenna. Poi non aveva trovato un pezzo staccato, di antenna da te, chissà chi è che l'ha buttata giù. Non ti dico che lui ve l'aveva fatta pure, eh? Sempre la stessa cosa da dire. Guarda, io non ho potuto venire a prendere la linea. Un giorno ti faccio salire a vedere l'antenna se ci troviamo, come l'ho piazzata. Dopo mi dici, vero? Ehi, l'ho visto da lontano. Quando ha 9 tiranti? Sei già tirato Bruzio, No, non me ne frega, perché c'è gente che fa di tutto per, capito, perché non ne vuole, no? E praticamente non so quello del mio palazzo, ma quello dell'altro. Questo qui stavo cercando di mettere il film per farmela tutti, no? E nessuno gliel'ha messo. La pecora nera, purtroppo, o più pecora nera, io diciamo coraggio, comunque. Pure io, coraggio. No, quindi gli uccelli del malaugurio, poi la minima ricorda di queste qua, stanno sempre con le bestemmie. Tu non ci credi, ma stanno sempre con le bestemmie, magari ti vedono anche lontano, loro bestemmiano sempre. Ecco una cosa, diciamo, coraggio. Sai quando si chiama raga che vai, io? Io anche non farei altro, ma io l'ho fatto bene, gli ho messo gli uccelli, c'era praticamente il castrato. Ho messo gli occhiali per mettere i tiranti nel muro, no? Una volta che ho messo gli occhiali gli ho passato il silicone nero per non vedersi, dove li avevo, io sempre vivo il silicone, hai capito? Ho capito. Ma il coso del, come si chiama, il capocondomino, sarà salito a vedere il lavoro che hai fatto, no? A voglia che è salito. Se c'è una doppia chiappa come voglio salgo, mi controllo l'antenna, faccio un po' di buccia, non è che ognuno ha le sue parti nel condominio, quindi quella è la mia parte, me la controllo io. Ma poi il cavetto e il terrazzo ognuno mette il vostro pezzo. No. Il terrazzo, capito? Il tetto a terrazzo c'è la porticina, si entra, si sale sulle scale, all'ultimo piano c'è la porticina e tu si vai direttamente sul terrazzo. Ho capito com'è. Però mannaggia bene, il condominio, ognuno sa la sua, non venite a va. No, noi ce l'avevano messa anche l'antenna TV in condominio, ma c'era da mettere il contattore, anche perché poi ci avevano messo le luci, il portone, le cose. No, non abbiamo mai messo perché anche no, che magari eravamo gli unici, diciamo, tre pezzi che dovevamo pagare e gli altri no, e quindi no, lascia stare tutto così. Tu lo sai, perché ci vivi lì e sai che gente c'è. Ma tu che te ne parli vicino a Mario? Vicino a Gio Maria. Chi non lo sai da voi? Non ricordo più, ma sinceramente dove abito non me lo ricordo. Vabbè, ho capito. È la zona dove abito la Manola, lì, quella zona lì, è la coppa. No, dove ho deciso molto prima, all'angolo. Cappa. Perché risultava di fianco, non salendo nell'angolo dall'altra parte, proprio come dire nella piazza. Ho capito. E vabbè. Comunque in ogni caso tu sei a casa tua e sei a casa loro. Tu la legge te la fai a casa tua, non te la fai a casa tua, te la fai a casa tua. E vabbè, adesso casa mia non mi comanda nessuno. Poi per quanto riguarda queste cose condominiali, no, ho smesso di rompermi le scatole con loro, no. Non ne voglio più sapere. Che io non ci vado mai alle riunioni, siamo in casa. Qua riunioni non ce ne sono neanche, però no, non discuto più di queste cose qua, le sono stufato. Da noi uno si alza, cambiamo le finestre del portone, cambiamo i cancelli, cazzo pare che non sappiano di una parte di dirai, sa niente. Io sono un palazzo dove sono tutti i dottori, i infermieri professionali, chi lavora all'Ener, chi è maresciallo di polizia, tutta gente, capito, tranquilla. Tutta gente cagatina, no. Allora, gente che sta bene, là. Un dottore c'è, uno che lavora in banca. Capisci gli annari sono stati più di noi, capisci. Mi figlia di denaro, mi dice, noi, vedi, sono sempre più, magari sono quelli che ci lamentano. Non sanno di gran parte di denaro. Adesso per dire ci sono le finestre, normale, non c'hanno nulla. Avessero avuto le finestre rotte. Dice non si aprono perché ci vuole un po' di cerricine e le cerniere, tutto lì, non ci vuole altro, se no lo vuoi e mi paghi di a me. Cioè il balcone magari sono 9 nuvi e se vuole una pappa poi mi un po' quella, poi non l'aprire mai, si inciola, non si pure e poi si abbassa. Sono quelli basculanti nei terpa, quelli che si abbassano. Praticamente dice che non si aprono, una cosa non si aprono, perché ci sono quegli affari, quelle cerniere che si abbassano, no? Quelle lì sicuramente sono un po' ossidate, ma se metterci un po' di cerricino riscendono tranquillamente. Beh, ma appunto se non scendono basta fare in modo che scendano, ma non è che ci apre il balcone perché non si aprono. Per figurati se non si apre il balcone perché non si apre, basta a renderlo apribile. Cioè, se c'è qualcuno anche che poi gli interessa molto, basta appunto, come hai detto tu, poi il CRG lo apre. Perché non l'abbiamo mai chiesto la mattina, c'è un bel balcone che non sa, il blu. Il cancello elettronico che rimane sempre aperto, quello lì però non lo aggiustano. Ehi, vabbè, tante cose ci sono che non vanno bene. Comunque per quanto riguarda l'antenna a me non me ne vado a educare, che se no li chiamano scomposto. Ma vero baro lo elogiamo, per i carabini di Buri, perché se a me si è alzata a toccarmi l'antenna li chiamo i carabinieri. Lo so, so. Magari tu fai così, io ho il discorso e che bisogna parlare a quattro figli per spiegarti con quale tipo di persona a che fai. Non c'è più gara, io magari quando ero ragazzo che c'era punto e corno, ero più combattivo, ma vanno anche più gara, non combattivo italiano. Ormai lo so, già lo sai che io ci sono stato, ma però ci so come la gente, come si comporta lì, c'è una legge loro, sono tutti prepotenti, sono tutti grandi arroganti, sono ignoranti, non ragionano, non lo so come sono, ma sono tutti così, però la maggior parte delle case popolari sono così. Cioè, quando ti dico che sono finito sotto processo per difendere la mia casa e quando vengono a infortunarmi dentro la casa mia e tutto quanto per difendere quello, sono finito sotto processo, figurato un poco. Figurati. E gentaglia c'è poco da fare, ma non ci riesci a avanzare da lì. Ad andarmene? Per il momento non posso, mi sto pensando, ma adesso perché c'è mia madre ancora e poi un giorno si vedrà, perché non mi piace più. Ma per stare un po' tranquillo, proprio perché è una zona tranquilla, capito? Statene con gente più civile. E cos'è? Se una zona tranquilla a me lo sai cos'è, a me mi piace il campagna. Vabbè, ti rabbini da punti magari. No, ti dico che il futuro adesso per il momento siamo qua, continuiamo a fare compagnia a mia madre e poi vediamo perché altrimenti non veramente, io già ci passo poche ore adesso qua perché come tu sai sono tutto il giorno a Sassi. Al momento che mi gioco, no, che fa carità, non mi piace più, non ho voce per. Perché? Perché ti ha dato tanti problemi quella zona lì, non è che non ti piaccia perché non ti può piacere, ti ha dato problemi, quindi logicamente tu vedi che ricausa problemi e non vuoi che ricausi anche a tuoi figli, più avanti. Sì, adesso le cose sono, insomma, sono così, qualche anno a questa parte sono un po' più calme, ma fino a qualche anno fa è stato più facile, no? Mi ha fatto già dentro casa tua, tranquillo, che hanno fatto la roba di centrale. Ma vai, io ho lasciato perdere tutti e tutti, in qualche caso tranquillo, non ti chiedi più a me. L'importante è chi tocca a salirmi adesso nel mio pianerotto, ho piatto un picco direttamente, non mi vado da lì. Quando hai a che fare con certa gente hai poco da scherzare. Non sai cos'è, che a furia di pensarne qualcuno adesso un po' la gente si è allontanata, ha capito che non c'era verso, però devi arrivare alle mani e poi quando la loro difesa non è stata lì nelle mani ti portano in tribunale, capito? Io lo sai cosa avrei fatto invece di usare le mani, quando finiva l'infortunata avrei chiamato i carabinieri e così a Lumanco mi ravvinia, gli avessi dato la diffida e non si potevano più avvicinare al tuo appartamento. Quando chiamavi loro sembravano che erano colleghi. Così è. Cazzo, sembrava che erano, gli mancava il tavolino, la gazzosa, le cannucce, erano a posto, sembravano amici. Questi bisogno con notte blue. Guarda, più di una volta intervenire loro e addirittura se tra l'altro sono andati a far culo più di una volta nel centro casa mia. Anzi, per dire la verità qualcuno ce l'ha buttato anche fuori di casa perché dentro casa mia comando io e non mi dici che tu che cosa devo fare, come mi metti il silenzio a me. Infatti stavo toccando i problemi, ma dentro casa mia non per questo, no, dentro casa mia comando io, e devi pure farmi la cura, te a Eddie. Vabbè, ma è come questo qui che se la messa in testa e busta il muro di fare. In casa mia il tuo comando non sei tu che mi fai la legge, se non ti piace, se ti piace il silenzio, tu devi andare a casa serena. Sì. Mi raggiungi. No, guarda, non può po' di tutto qua, mi è capitato, un po' di gente che addirittura non può giustificare i ritrovabili davanti al pianerotto, e siamo qui. E poi quando prima le tieni un po' alle buone, no? E ti fai capire che non è posto, invece non lo capiscono, allora devi intervenire con le mani, con le cose, insomma, se va buffone nero, va già mentale, che no, non c'è più caro di qualche cosa. E poi è sempre brutto usare le mani, se si ragiona forse con la testa qualche volta, ma lì c'è un po' di ignoranza, cosa ragiona? Senza di metterti le mani addosso, cosa fai? Ti difendi, no? È normale, ormai. E come ho fatto io a sapere qualcosa, gli fu tutto detto. Che vuol dire uno? Ma io non lo vorrei mai fare, per carità. È l'ultima cosa che uno deve fare. Quando non vuoi rimedio, non vuoi rimedio. Cosa vuoi fare? Se vai a punire mani in alto. No. Mani in alto non vuoi punire. Quello che, no, poi arrivato alla fine, quando poi sei pieno, no, non ti fai ne manco più perché il cazzo è troppo. E allora, ecco che avevamo queste cose qua, no? Il doppio della violenza anche che devi usare. E poi ne pagano le conseguenze perché abbiamo visto che hanno trovato il terreno duro e allora vanno con queste cose, no? Ma non ti fare trascinare questa gente qui, poi dopo ti portano avanti chi li ha visto. Perché poi alla fine perdi tutta la voglia di cose di stare tranquillo, c'è poco da fare, quando ti provocano, non ti fanno, non so come sono la gente lì. Perché anche Luca mi stava dicendo che gli avevano tagliato il filo dell'antenna, lui gli hanno fatto un bel rispicchio. Sì, poi arrivano a farti gli spezzi, no? Per farti cazzare di più, appunto, usano questi mezzi. Che sono, cioè, dico, se c'è qualche cosa, viene sempre da me, no? Invece, appunto, l'incazzo maggiore che ti dà è che usano questi mezzi qua. Cioè, che si fanno vendetta su altre cose, non c'entrano niente. A quella della notte hanno un telefono, gli hanno... stanno in bici durante. Ma qua ti fanno di tutto quello lì, è il male più corto che possa esserci, ma qua non si sta prendendo anche per esempio con le macchine, con la propria casa, faccio nella ghiaccia, capisco, faccio la cosa. No, cazzo, o sì, no. Non ci avrei durato più di un giorno io così, perché poi ti portano all'esasperazione, non c'è l'altra tranquillità quando stai a casa. La casa deve essere una reggia quando tu, devi stare tranquillo, fare le cose tue, tranquillo, guardare il televisore, bussato, rilassarsi. Se non è un relax, quando torni a casa è peggio andare un giù. Ecco, appunto, vedi che torni al mio, infatti quello che voglio io, cioè io devo stare tranquillo, non devi venire. Io non rompo le palle a nessuno e non mi voglio rompere le palle da nessuno. E poi so perché ti vedono così magari, che non cerchi nessuno al cuore, ma a me non mi interessa, no. Cerchi amicizie, certe cose, a me non so, tipo di cercare questo, cercare quell'altro. Se non sono rimasti vivo in casa mia, mi dovete lasciare, e penso non sono in Africa. E poi con questi mesi, cazzo che io odio tra l'altro, che mi mandano in bestia. Lo so, una volta hanno rubato la moto ad Agostino, no? Agostino ci ha rubato la moto, ce l'aveva pochi mesi, se la stava ancora pagando, poveraccio. E hanno rubato la moto da sotto a casa e gli hanno detto, gente latte dolce, non chiamare i carabinieri che già te la buschiamo noi. Vabbè, fanno un giro, e tra l'altro c'è anche Edoardo a cercarla, fanno un giro, vanno a casa di gente che sanno che le frega, ed era andato anche in mano a una persona che tu ben conosci, che è il fratello di quella tipa che tu hai nominato l'altro giorno, senza far nome. Cambiano detto, Edoardo, la moto era già partita, 150 euro l'avevo venduta. Una moto di 2 mesi di vita. E tra l'altro devono rubare insieme alla moto il borsello con tutti i documenti, la patente che gli serviva per lavoro, la tessera del CISO, la tessera della protezione civile, tutto gatto. Beh, fatto sta che Agostino non ha fatto nulla proprio perché c'era in mezzo quella persona lì. Detto, per volere bene la sorella non faccio niente. Però gli ha detto Edoardo, cercamela la persona perché la moto la voglio, se lo so come andare i carabini, non ci andare, mi sono, non mi decabio a me, non mi di più nulla. Perché lì c'è una legge che si fanno loro, capito? Giustizia non ne vogliono, vogliono tra amicizie si cercano la roba. Beh, fatto sta questa moto non è uscita mai fuori, così si è dovuto rifare tutti i documenti, compreso la patente. Niente, non ne ha trovato più. Dice che praticamente uno l'aveva venduta all'altro, quello che l'ha pagata 150 l'ha venduta 200 a un altro, quello lì l'ha venduta 250 a un altro ancora, una catena, non si trovava più, diciamo, la maglia. Ha continuato a andare la moto, capito? Non se l'ha tenuta nessuno in mano, forse bruciava, boh. E fatto sta che Agostino si è pagato la notte della moto senza averla. In più si è dovuto pagare tutte le documentazioni, tutta la roba che si ha fatto, un casino. Oh, ti assicuro che il resto delle cose l'aveva pagato dietro. Lo zip, lo zip, lo zip. Ma lui gliel'avevano data, capito? Non è lui direttamente, gliel'avevano venduta, lui l'ha rivenduta, capito? Beh, però, se dici che te l'ha venduta, allora la tenia che ti cerco, però magari anche le ratte, no? Per fa, e tu pensi che lo dicano che le ratte, oh? Si va bene da dirti poco poco che la data hanno la ciappa nella massa. Vabbè, allora vado a denunciare, però pagarmi più di quei soldi, no? C'è un giro, lì c'è un giro vizioso, per fa. Allora gli avevano rubato la macchina col giubbotto dentro. Alle 7 l'ha rubata, alle 8:30 l'ha ritrovata, dopo un'oretta l'ha ritrovata. E chi? Edoardo. L'hanno fatta ritrovare, però perché non ti ha toccato la Ianna 1, l'ha detto, ma detto che si sta di aiuto, cavani la macchina, e detto, mi vieni quella via lì. E è così, non funziona la giustizia lì, non hanno paura. Tu pensa che un giorno mi chiamano i carabinieri, mi fanno venite subito alla Tredoce che ci deve essere qualcosa di grosso, Piazza dei Turi. Mi ha detto però aspettate che arriviamo prima noi perché la scorsa volta ci hanno tirato lo scaldabagno sulla macchina. Ehi, di stare molto attenti, di lasciare la macchina lontana, un po' lontana dal... Ho detto sì, ma se ci sono feriti noi dobbiamo caricarli, non possiamo lasciarla lontana, dobbiamo entrare dentro. Beh, arriviamo lì. Che cazzo c'era? Cabimano, te lo ricordi? Sì, io me la metto. C'era quello lì, mi sono avvicinato, ho detto cosa è successo? No, non so nulla, io mi sono portato su una costa di sangue, cazzo per fare. Una pozza di sangue in terra, seguiamo le tracce dei carabinieri e arrivano a questa scala, a un certo punto sentiamo un grido, andiamo correndo e la donna è svenuta, non so perché, perché ha visto la scena, una ha avuto un crash in capo a uno e ha fatto la griba di un gabbo, dopo si tira rigata sopra ma non vede da nessuno, alla giunta ha avuto un crash in capo, un gnadrappo che va via. Ma tuo padre è abitato sempre lì? Purtroppo sì, sempre qua. Ma pensavo che prima abitasse in paese. Fatto sta che di lì ne ho visti tutti i colori. Ho visto uno, praticamente questo qui abitava con la figlia perché la moglie era morta, la figlia si è portato dentro casa anche un uomo. E questo qui alla fine lui e la figlia lo volevano buttare fuori al padre, la casa sua. Un giorno ho chiesto, sì, casa, il padre è tu, io qua sono il padrone, capito? Se vorrei voltare per andare voi, ma questa è casa mia. A piedi di un video era questo un piatto in capo, era gribato tutto un gambo. Sì, so ce l'ho preso, sì, ho abitato il paese fino al 68, cioè fino al 60, sì, pardon. E poi siamo venuti a Sardegna e poi siamo venuti qua. Qua abbiamo fatto 40 anni all'8 ottobre, il nostro Twitch. E ti conosci in Tegano? E perché si comportano così? Ma che motivi ci sono? E i motivi, sai, qua la gente, la gelosia, e c'è anche dai bordi della pelle. E io sai cos'è, che tutta quanta gente strana, tutta tratta galeotti, tutti tanti drogati, fa, e non posso vedere una persona tranquilla, capito? Infatti, perché quando c'è una persona tranquilla loro non la vogliono vedere tranquilla, vogliono, cioè sono di quelle persone, o sei di noi, o sei nessuno, capito, ci sono pensato quella cosa un po' qua. E già lo so come funziona. Io mi ricordo che io abitavo a Saprofuori prima, nella casa di mamma, e ti dico la verità, a me però non mi hanno mai rotto le scarpe, si affarravano, loro sapevano che io ero tranquillo, se mi già si aveva bisogno di qualche cosa, già lo sai, e mi dicevano, io non ho mai cercato nessuno, anche quando ne ho avuto bisogno, mi sono sempre, a me sono sempre cavata da solo. Come una dita, sai cosa mi ha fatto? Arrivo a Sacro Cuore, c'erano questi tre tipi. Arrivo col furgone a Terralba, tutto carico di vini, stanco morto per il viaggio e tutto. Si avvicinano questi squadra narcotici, lui qua non può parcheggiare il furgone. Io ho chiuso, ho fatto finta di nulla. E tutto perché uno della squadra narcotici vuole farcela drogato. Lasciano in pace perché sono stanco e prendo subito le staffe, te l'ho detto anche. E mi perseguitavano e cominciamo, oh, volevo fare un fisico, un visto, un cattolico di una giussa, ne manco tre accuse, io di noce questo più bravo. Ti raggi con una giussa, erano in tre, il primo ha buscato forte, ho buttato in terra a fare di bella faccia, triba, il secondo l'ho dato un fascicolo e ci ho fatto uscire dall'altra parte, quello che è caduto in terra, l'altro che è venuto dal mio calcio a me, non ce l'ha fatta, l'ha giubilato, un altro ha fatto gaggia più a terra. Vabbè, per però ci ingessati, io non mi sono capizzato, ti ho detto tutta te che si fa dei video, ci facendo tutto gatto il gesso, non mi sono capizzato, dai che te l'ho incazzato. Oh, non sai cosa hanno fatto, e poi me ne sono andato a casa c'era un uomo incantato, mi ha guardato. Salgo a casa e si mette, e ne arriva questa grefa tutta attorno al furgone. Se non scendi giù te lo incendiamo. E mamma, io scendo, cazzo. E mamma, non scendere, mica ti picchiano, guarda quanti sono, non c'è problema. E c'è la gente a Sacro, non erano da Sacro Cuore questi qua, se cazzo vi lasciate ieri a Sacro Cuore, se la si sa che erano i biglietti tutti gatti. Non c'era nessuno il giorno. Stavo scendendo le scale e cosa hanno fatto? L'ho chiamato la polizia. E stavano salendo due poliziotti a casa, però che polizia non è mai stata a casa. Tra l'altro erano due amici miei, questi poliziotti. Se mi fanno già, ma non mi dici sei tu, no? Sì. I signorini sono scambiati per squadra narcotici, rompevano le scatole a tutti quanti, poi è venuto la signora e ha detto sì, anche a me mi hanno rotto le scatole, mi hanno detto se li faccio suonare la gomma, questo e quell'altro, maleducati, già gli ho detto che se trovavano la scarpa con il suo piede le prendevano. Allora questo amico mi ha detto, tu fai finta che noi non ti conosciamo, adesso scendi giù con lui, già non ti tocca, siamo noi, non ti preoccupare, non ti tocca, mi quello sì, ci ha picchiato, questo e quell'altro, Allora, tu di perché ti ho picchiato, ti sei scambiato per squadra narcotici, stavate rompendomi le scatole quasi a provocarmi per picchiarmi, e allora io logicamente, ve l'ho detto che ero abbastanza stanco, avete bigliato la giusta, ma vi avete bigliata, e quando mi vedete cambiate marciapiede, la giustizia prossima borsa, che non, state, non avete a che fare con un balengo. Cazzo mi viviani, già per fare marciapiede al vino, i poliziotti mi hanno fatto finta di prendermi il nome e tu già fatti dire che lo stracciamo prima di andare bene e non mi hanno fatto un troppo è così, non succede, è successo, beh, mi racconto una io di questo. ripeto, si è tre drogati, si è tre spacciatori, uno è zaccaio e tu in più pure, ma... Ah, per carità. Vabbè, se vive il delinquente vuol dire uno che lavora, sono anche d'accordo. Allora sono dei lavoratori suoi figli, così la via di... Io povero me sono da ragazzino di 12 anni lavorando, e ho sempre lavorato e qua a me non mi hanno mai visto accoppiato in congresso del genere, non so, per senza. Io ho sempre lavorato, ho fatto sempre il fatto, tutte le cose che mi sono fatto mi sono guadagnate col lavoro, no? Non rubato né facendo niente. Vabbè. Come minimo una persona onesta deve fare così, solo che lì c'è quel... Non voglio fare tutto nel buon fascio perché, ti ripeto, io conosco gente che abita lì ed è tranquillissima, come sei tranquillo tu. Però la maggior parte lì sono così. Poi c'hanno questa mentalità che manco nei paesi ce l'hanno. È proprio una cosa loro, tipo mafia, devono tra di loro, si arrangiano. Se te l'ho detto che una volta ho trovato questa amica mia, no, per qua. Sono trocere fratello, ma io chiedevo a voce una cosa, io non lo conoscevo nemmeno, il fratello cioè di vista lo conoscevo, perché andava al circo degli anziani lì, lo vedevo lì. Quello si è affarrato anche con Vincenzo Maribu. E me l'ha detto lui a me. Che siamo scambiati un paio di gagnotti. Il fatto sta che ci hanno invitato a bere, cazzo commentiamo, chi si cazzo ha cominciato, e credo che di voi su essere un attacchetto, era venuto, ma ho visto la cosa e mi sono andato. Io me l'hai raccontato io. Non sai, di solito ci sto dicendo che qua c'è stata gente brava come noi, lavoratori, che cosa, ma appunto la gente che qua è brava come noi, questi anni, penso che non è mai stata trattata perché non li continuano a loro fare come allora. Infatti tutta gente che alla fine scoppia non è più come noi invece. No, no, la gente brava certo qua per carità. Però lo sai che cosa è? Che appunto loro, questa la gente così come noi semplice, loro non la sopportano ed è per quella. Sì, ma quello che non hanno capito è che sono loro inferiori a noi, non noi inferiori a loro. Tante volte anche sentite parlare, no? Cazzo credono che sei tu l'inferiore a loro, hai capito? Loro si credono superiori a te. Cazzo non si vergognano neanche a fare di quello che fanno, il fatto bello è quello. E a me mi lascia stupito, non si rendono conto. Cioè tu sei il cattivo, sì. Sei tu, non loro, capito? Quello che stupisce a me è che non si fanno neanche un esame di coscienza di dire, cazzo, dopo così, e vabbè, non dico nemmeno niente. Cazzo, no, no, no, no, addirittura che mi chiedono superiore, molto più superiore di te. Cosa c'è nel superiore? Il fatto che spacciano, che vendono la droga. Oh, yeah. Per carità di Dio. No, no, no, io, grazie a Dio, mi... C'ho lì i palazzi di Venuti che sono lontani, lì c'è un po' di gente loca, ma perlomeno questi palazzi tutta gente in gamba, non è, sono persone civili, persone tranquille. Ma se guarda, ti posso dire anche per esempio, ormai mio figlio è da ragazzo, lui poverino, che è sempre venuto a lavorare con me. Non ha finito niente superiore, ha finito la terza media, poi non ha finito la terza superiore, ma non la carità, ma ce n'era uno in particolare, no? Che magari con chi quando era te, con noi, ma sicuramente non conosci. E la madre la donna qua perché il mio figliatore l'ha citato un bel divorzio, no? E veniva qua a rompere le palle, diceva, ehi, tanto dice tuo figlio da grande sarà un delinquente. Beh, ha detto forse sarà il contrario, e già è così, attivati, ha già assaggiato la carina un paio di gusti. Infatti, sì, hai fatto bene a portartelo con te per qua, se non altro non sta in mezzo a quella gentile. No, no, il mio figlio lavora, è un gran lavoratore, si sta piccolo, è un gran lavoratore, su quello non gli posso dire niente, guarda. Anzi, c'è la testa troppo a posto. Infatti, no, ma è meglio che tu da chi ci ammette di rugare. Farlo frequentare da altre parti, con altri ragazzini e cose, però per l'ambiente lì, o almeno, anche lì va con niente tranquilla, perché lì non si sa mai che fine fate da buio. Non perché sia lui cattivo, ma sai, che va con lo zoppo e poi a piccare da buio. No, ma qua manco per la scava non è fatta, quindi la gente di qua, anzi l'avrà già dici per il male, ne manco le confidenze. Guardi, con ragione, hanno creato sempre problemi al mare. E poi quei palazzi lì sono fatti apposta, quei palazzi lì sono i più lonfi che vi so, proprio lì dietro la cona, di spacciano lì, tutta quella zona lì, dove c'è la pizzeria, lì. Infatti, no, guarda, se Antonio qua non ha niente a che fare, poi quando esce lui si prevede, se esce se va a stare oppure che con me, ma io quasi sempre siamo assieme, oppure con la sorella, con il Marquano, non rimane manco di lì. Infatti quello deve essere solo un posto d'appoggio, poi sto pensando a tua moglie, come cavolo fa, che deve stare tutto il giorno lì. Sì, con indifferenza fa. Ormai ci si è abituata, restata con indifferenza, no? Cosa vuoi che faccia? Ormai, Poi adesso lì è anche malata, quindi. Via. E che cosa c'ha per qua? Purtroppo, i beni, uno non sa più. Sì, ma anche, guarda, mia nipote è nata senza un rene. È nata e tranquillamente vive, quello non è un problema, pensate che funziona a meno uno. Ma appunto quell'uno sta funzionando bene. Lì ci vuole trapianto allora. E chi lo sa, in gradatoria, Ma l'unica è quella. Guarda, c'è una signora che faceva la dialisi, ha fatto il trapianto. Ho detto, come va signora, una cliente nostra. Come va? Sono rinata già, sono rinata da quando ho fatto il trapianto. Solo il fatto di non andare a fare la dialisi. Guarda come ho le braccia, mi ha detto. Cazzo, tutta bubuglione. Dipende dalla gravità e deve praticamente risanare tutto il sangue, tutte le impurità le deve tutte. Non dipende anche da quanto nell'arco delle, tra uno e l'altro, da quanto come si chiamano le cose che sono nel sangue, dipende da quanto delle donne controllato il peso, il supporto quanto il peso assume, capito? E poi che non sai più com'è. Io lo so così. Io andavo, li portavo, prendevo la sera a riprenderli, perché tengo anche un'osservazione subito dopo. Tengono quell'osservazione. E vabbè, sono mali brutti. Brutti. Il padre di un amico mio è morto da poco, mi faceva la dialisi mattina e sera. Allora arrivate proprio al limite, facciamo tutti e il limite proprio. Infatti. Purtroppo era sedia a rotelle, era messo male, ma questa micromia era proprio attaccata al padre. Sono una famiglia che sono, io l'invidio pure, perché noi non siamo così, dico la verità, però l'invidio perché sono uno per l'altro, tutti per l'uno, per tutti, per la famiglia. Mia nipote, vedi, forse perché è nata così, con un re, l'hanno scoperto quando era già nata che aveva un rene solo. Mi hanno detto, guardi, non può fare i sovrasforzi, però può fare una vita normalissima. Interessante che non gli sia male quello, il re, perché se no dice può fare una vita tranquillissima, una persona normale. Certo, non può sforzare su certe cose, infatti da piccola quando sudava, viene subito mia sorella, non corre, non, come si fa a dire a un bambino di non correre? Infezioni, questo, quella, lo so, ma bisogna, guarda, c'è una ragazza a Porto Torres che era diabetica al massimo per fare, faceva mi pare 4 insulini al giorno, praticamente era malatissima al fegato, ha avuto trapianto di fegato e reni, duplice trapianto, l'unico in Sardegna, a Cagliari. E questa qua adesso non è più diabetica. Scusa Marco, non mi stai dicendo una cosa, un turing. 1, 2, 3. Oh Gianni, come sto uscendo io? Bene. Ehi, va bene, non è niente, non mi interessa, va. No, c'è un turno che mi stava dicendo che ho alternata io. Io non ne sento. Così è, ho già, sono malattie brutte. Non sai cosa è anche la sofferenza della persona e anche dei familiari. Certo, uno che li vuole bene e ci soffre a vederla così, capito? Ma non lo so che è così. Questa ragazza circola a Porto Torres ancora col fazzolettino davanti alla bocca. Perché appunto sono delle cose che durano, questo fatto che si potrebbero presentare delle infezioni anche a 70 di anni, come che è un pezzo. Perché gli anticorpi si formano piano piano. Aspetta come guarda, vuol dire che me ne vuoi dedicare, il discorso si chiama si riprendono bene, eccetera eccetera, ma per dire Bastianino, mio compare, l'hanno operato un rene, uno l'ha rotto e l'altro si è tutto atrofizzato. Tu pensi che infatti stanno, sembra sì, 7 mesi così, con il coso in faccia, con la mascherina, no? Appunto per non prendere questo accidente che dovrà mettere il cane. Viraggi la punta della riga. Infezione? In una specie di infezione, no, infatti è proprio un'infezione, non ricordo proprio il nome esatto, ma è un'infezione, no? Stanno grazie appunto per questo, però perché i primi 6 mesi, così 6-7 mesi sono i più pericolosi, e poi mano a mano deve, è meno pericoloso, però nei prossimi 5 anni su questa cosa qua ci potrebbero essere complicato addirittura fino a 5 anni. Ma è un caso su 1000 più al paro, non penso che sia una cosa molto, che deve essere raro, dai. No, no, un amico mio, è successo purtroppo, dopo 3 anni, ho beccato, era perso l'altro, nel senso che aveva, è andato in viaggio, ma ho fatto 3 mesi, addirittura. Lo so, ma mio padre l'ha messo il catetere all'ospedale che lui gli ha fatto l'infezione, per poco gli ha provocato un blocco renale, per poco non ci rimane, se non me ne accorgo io. Mi fa male, più della vega, lo porto soccorso d'urgenza. Gli attaccano la pompetta a casa per fare, non bastava più i bidoni a riempirli, ho detto proprio come gli spacca la vescica. Sì, a quello vuol dire che hanno inserito il catetere in numero sbagliato e l'hanno bloccato. No, gli ha preso infezione all'interno, un'infezione gli ha detto, poi l'hanno mandato a casa e gli ha provocato questo affare qua, non pisciava più. Stai andando, ma poi hanno 95 anni, non è che fa disabilitato. Vabbè, ma una cosa, cioè che quando devono mettere il catetere, innanzitutto per 5 giorni devono prendere gli antibiotici, e se non c'è catetere vuol dire che non hanno fatto le cose come si deve. Perché mia moglie, per esempio, dopo che mettono il catetere, gli antibiotici, subito dopo, perché specificamente ogni volta che c'è il cambio di catetere viene inserito, deve prendere antibiotici per le infezioni, no? Ma non so se tu lo sai, mia moglie hanno fatto la festa al Ciso di Capodanno, eravamo venuti lì e non mi ricordo se c'eri anche tu per caduta con la bambina, te lo ricordo? Praticamente ha preso l'angolo del gradino, quello che usciva dalla parte di dietro, dove c'erano i vigili. Ha preso l'angolo, ha fatto la storta per salvare la bambina, l'ha tenuta in alto e si è caricato tutto il peso sul piede e si è rotto il malleolo, il primo dell'anno. Beh, fatto sta che l'ha portato al pronto soccorso e lì c'è un record, è stata la prima dell'anno, è un bel record a casa, a dolori, gridando, facendo e gridando, dicendo cazzate. Vabbè, la porto su, la ricovero, eccetera, eccetera. Beh, per operarla ho dovuto chiedere l'incuzio. Certo, grazie. Comunque, in un momento del genere, il dottore deve sapere un record, deve essere il record della partita, e tu hai il record. Praticamente mi hanno lasciato 2 giorni senza operarla, col piede così. È gonfio, no? Gonfio, se c'era lo sulfuri, se l'hanno dovuto mettere i ferri. Che bastardo, i ferri, quelli sono carosi. Ho messo 2 ferri a croce, no, tipo spiedini rimaneva. A croce per tenere l'osso. Beh, fatto sta che vado il giorno che l'hanno operata, si avvicina al dottore e mi fa: ascolti, ci dovrebbe portare il gruppo sanguigno di sua moglie. Ho detto, cazzo, voi l'avete operata senza sapere manco il gruppo sanguigno, se succedeva qualche cosa, gli ho detto. Dice, purtroppo un'infermiera si è dimenticata di prendere nota e cosa. Ci abbi pazienza, ma noi l'abbiamo dovuto operare perché abbiamo visto la gravità della cosa e vabbè, però l'hanno lasciata 2 di femma, prima non era grave. Mi sono andato a casa, ho preso tutti i documenti e li ho portati. E loro stavano nascondendo, ma potevano, l'hanno operata senza avere il gruppo sanguigno. Se succedeva che perdeva sangue, roba del genere, come cacchio faceva? Ah, non credo, lo sapevano perché prima dell'operazione fanno sempre il rilievo del corpo, lo sapevano. Ma poi anche se deve essere fatto. certe cose, così come anche io certe cose, le generatori di attrito, ma non devo toccare uguale. Lo so, ma cazzo, per fa? Perché me l'hanno chiesto a me? Ce l'hanno chiesto per confrontare, magari avere un figlio di una breccia, magari qualche disattenzione, ma comunque sicuramente gli hanno introdotto delle piastrine nelle cose, in cui al limite si va il bagno, con quel sistema lì va lo stesso, perché non è detto che tutte le operazioni diventano di sangue tuo, ecco. Vabbè, comunque poi me lo facevano pesare, sono andato a parlare col dottore per vedere come è andata l'operazione. Mi fa, lì è il marito dell'incostato. Per farti pesare il fatto che gli avevo messo l'incuzzi. Ma cioè, dimmi tu se uno ha bisogno dell'incuzzi per far operare la moto, ma dimmi tu che. Io ho sempre odiato, credimi, i rincorsi nei posti di lavoro, in questi posti qua. Ho sempre detto, gli occhi rincorsi da tutte le parti, ma avessi considerato che stiamo vivendo in un mondo corrotto, marcio, cosa vuoi fare? Ti devi adeguare anche tu, perché se no rimani fuori da tutto, non puoi fare nulla. Non lo so cosa ho dovuto fare. Mio compare per trovare un posto di lavoro, gli hanno detto, mi tu fai così, è questo qui che lavorava in comune, tu vedi da questo assessore qua che è candidato, gli dici che sei interessato a fare pubblicità perché sei del suo partito, questo e quell'altro, ti fai dare il materiale, vai a fare pubblicità, poi viva Bibi, poi ha fatto lui, si è acciappato il logo di travato. Di validità. Figura, se tu quella volevi non la potessi manco fare. No, non lo siamo. Ah, sono per tomo. Lo so che sapeva. Ma anche tu già non si è messo bene, mi ricordo che tu prendevi le pastiglie, te le portava tua moglie, guarda se ce l'ho mai moglie io. Beh, io non tanto di meno. E se c'è bisogno di insulina la fai, per cosa devi fare? Come si è messo? Ma quello è sbagliato, vedi? Per fare, ricordati sempre che nel pranzo devi mangiare mezzo panino svuotato dalla mollica, quello non mangiarne più di mezzo, perché il pane e la pasta ti fanno salire la glicemia in una maniera allucinante, i zuccheri eliminali, prendi dolcificante, prendi fruttosio, però li zuccheri di frutti mollali. La frutta non mangiare né cacchi né frutta che sia molto dolce, per mangiare le mele tranquillamente, le pere, però banane, cacchi, tutta questa frutta dolce non la mangiano altro la dieta. Un grande sbaglio per pa. Ricordati di quello che ti sto dicendo, io ho provato a fare dieta, facendo la dieta non c'avevo un filo di glicemia, niente, a 80, 85, come una persona normale. Ci mangiavo, mi stava 200, 230, e quello qua normale, è inutile che tu prendi la pastiglia e poi mangi un bel, non fa nulla. Bello. Troppo. E perché poliziotto, vabbè, io questo che sto usando è degli anni 70, non ti credo che sia più giovane. Mio è molto vecchiotto, mio cioè la roba c'è da parte, tutto le cose quando sono un po' piatto, però funziona ancora bene. Che antenna stai uscendo? Ho capito. Che antenna è piazzato? Sopra la mantova. Ah, sul tetto ce l'ha? Sì, sì. Ma quindi ce n'è uno in più ai punti adesso. C'era già spostata già la moto, è che non ho sempre potuto farlo. Ah, cappagappa. Va bene, c'è Luigi, c'è cosa, c'è Giulio, tutta quella zona c'è. Io non è che conosco, io mi sono trasferito da poco, quindi non è che conosco a tutti. Cappagappa. Per fare prima. Domani sera. Ciao per favore. Beh, anche io a correcarmi, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Comunque siamo qua sull'uno, i canali che usiamo sono questi. Vabbè, ci sentiamo, infatti non hanno fatto apposta, ma sono apposta tutto. Ciao, ci sentiamo. Stammi bene. Ciao.